Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 30 dicembre, il sole in regione è sorto alle 7.50 e tramonterà alle 16.30. Si può già dire che le giornate a ridosso dal Prin d'Alan, come vuole il proverbio friulano, si siano allungate un pidichian. Domenica c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Nada Cioc. Ultima puntata del 2018 per Vita nei campi che, seguendo l'annata agraria, onora qui solo il calendario, il passaggio stabilito dagli uomini, le sue annate sociali. E per questo, come peraltro da consuetudine, in apertura abbia l'assessore regionale alle politiche agroalimentari che traccia un bilancio dell'anno appena trascorso e delinea le sfide per il 2019. Di altri tempi, un po' più dilatati, parla nel suo corsivo Enos Costantini, che reclama attenzioni e festeggiamenti, si fa per dire, per il 10.000° compleanno dell'agricoltura. Tornando alle cose dei nostri giorni, parleremo poi di fatturazione elettronica in agricoltura, dell'allevamento bovino nei territori austriaci del Friuli a cavallo tra 8 e 900 e di un'associazione che si occupa del futuro dei nostri boschi in un momento in cui c'è estremo bisogno di nuove attenzioni. A seguire un'altra puntata della storia della grappa in trincea nella Prima Guerra Mondiale, l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Stefano Zannier da 7 mesi guida l'assessorato alle politiche agroalimentari del Friuli Venezia Giulia. Quali sono i successi che pensa di essere riuscito a portare a casa in questo breve periodo all'assessorato? Ma innanzitutto credo sia indispensabile ricordare che la situazione più preoccupante all'inizio della legislatura era quella legata ai pagamenti del PSR, che avevano raggiunto in 3 anni circa 19 milioni, quindi un livello bassissimo che ci metteva agli ultimi posti del pagamenti in Italia. L'obiettivo per il 2018 era di 50, oggi possiamo dire con soddisfazione che siamo arrivati a 79, quindi vuol dire che in 6 mesi e poco più abbiamo fatto 50 milioni contro i 19 dei 3 anni precedenti, quindi questo è un successo del quale vado orgoglioso, ma del quale devo anche ringraziare sia tutti i componenti dell'amministrazione regionale, sia tutti gli operatori esterni che hanno contribuito a sbloccare una situazione dove anche AGEA, devo dire la verità, ci ha messo il suo impegno per riuscire a darci questa passaggio. Funziona tutto? No, assolutamente no, c'è tanto da migliorare, c'è tanto ancora da fare, però questo è un successo. Ci sono invece le ombre. Cosa non gli è appunto riuscito di portare a casa ancora? Non tutti i comparti del settore agricolo sono in questo momento in salute, anzi ce ne sono alcuni, penso ad esempio al mondo del vino, che viaggiano discretamente bene, altri che sono in situazione estremamente difficile, da tutto il cerealicolo per passare allo zootecnico, al lattiero caseario, e qui serve forse una visione di insieme che cerchi poi di poter valorizzare le produzioni finali, perché risulta a mio modo di vedere evidente che se riusciamo a collegare le produzioni al nostro territorio e a venderle quindi come un prodotto del nostro territorio, possiamo valorizzarle e dare un valore aggiunto a tutti i componenti della filiera. Se entriamo sul mercato generale, le nostre aziende a quel punto si trovano in una condizione di concorrenza non accettabile. I prezzi del mercato reale oggi non consentono a un'azienda in Friuli Venezia Giulia di poter continuare a fare agricoltura, quindi dobbiamo valorizzare il prodotto finito e cercare di fare in modo che le filiere si chiudano all'interno della regione Friuli Venezia Giulia. Passiamo al 2019, le prime sfide da affrontare. Ma la prima è proprio sul settore lattiero caseario, dove abbiamo iniziato una progettualità ascoltando tutti i portatori di interesse, ovvero tutti gli operatori, dagli allevatori e quindi ai produttori di latte, ai trasformatori, a chi segue la commercializzazione e la valorizzazione del prodotto. Vogliamo portare avanti un progetto unitario che possa metterli a sistema e promuoverlo nella maniera corretta, per cercare proprio di riposizionare il prodotto finito su dei livelli che sono quelli che la qualità della nostra produzione merita, e anche a quel punto è un riscontro economico diverso che consente una valorizzazione, un pagamento per parlare in maniera semplice, un pagamento del latte ad un livello decente, perché questo consentirà poi di mantenere anche tutta quella parte della produzione cerealicola che si utilizza per l'alimentazione, consente quindi a un intero comparto di vivere e non in questo momento di sopravvivere a stento. Al di là del settore vitivinicolo che ha già ricordato, quali secondo lei le eccellenze di cui possiamo andare fieri? Ma noi in realtà potremmo andare fieri di moltissime cose e non ce ne rendiamo conto, perché siamo i primi a non renderci conto che le produzioni che riusciamo ad avere qui nella nostra regione sono di una qualità altissima e sono anche di un pregio importante che va oltre il bene in se stesso, perché potremmo riuscire veramente a creare un sistema di prodotti agroalimentari collegati che riescono a valorizzare anche tutto il territorio della regione. Anno più, anno meno, l'agricoltura compie 10.000 anni, ma sono in pochi a celebrare questo compleanno, dimenticandosi che è l'agricoltura ad averci dato sempre da mangiare, patendo però, come sottolinea Enos Costantini, tutti i soprusi della storia e ora anche della tecnologia. Dopo il quarantennale del terremoto e il centenario della Prima Guerra Mondiale, speriamo che si parli del decimo millenario dell'agricoltura. Senza fanfare, medaglie, sfilate, gagliardetti. Diciamo che da 10.000 anni a questa parte la politica agraria non l'hanno mai fatta gli agricoltori, bensì quelle classi dominanti o classi dirigenti che hanno sfruttato, in modo più o meno parassitario, i surplus dell'agricoltura. E anche su questi surplus, costati sangue, sudore e lacrime, ci sarebbe da discutere. Durante i periodi di carestia erano i contadini i primi a morire di fame, mentre i parassiti, quelli con armi e armature, libri contabili e tonache, riuscivano sempre a riempire lo stomaco. Le guerre erano fatte dai contadini che producevano fieno e avena per i cavalli armati, subivano le distruzioni delle campagne e il saccheggio dei viveri, formavano gli eserciti che, in nome del principe o in nome di Dio, scannavano i propri simili mai visti prima. Mio nonno era sull'ortigara. Per un pelo è riuscito a tornare, ma non ha mai visto in vita sua né Trento né Trieste, neanche in cartolina. Neanche in viaggio premio ce l'hanno portato. I tanti monumenti ai caduti sono monumenti ai contadini. Non sempre la politica agraria è stata cattiva. Ci sono stati periodi buoni, con classi dirigenti illuminate e personaggi a cui va tutta la nostra ammirazione. E qui citiamo solo Gabriele Luigi Pecile, nato nel 1826. Tale buon periodo però durò fino alla Prima Guerra Mondiale. Nel secondo dopoguerra una politica accorta ha voluto, dopo secoli, dare la terra ai contadini. Però l'agricoltura ha dovuto dare tutto, ma proprio tutto, all'industria meccanica, all'industria chimica e all'industria genetica. La seconda e la terza si sono unite per pretendere dividendi sempre più elevati a spese del pianeta. Il risultato più palpabile è che non ci sono più contadini. I pochi rimasti, rari nantes ingurgite vasto, non possono neppure avvalersi della legge di azione di massa quando vanno a votare. Dopo 10.000 anni di storia si è imposto il distacco netto tra i campi e la tavola. Il cibo ha perso ogni sacralità e ci viene offerto in piccoli sepolcri di plastica. Buon compleanno, agricoltura! Ma altri 10.000 anni di plastica non saranno possibili. Anche per le imprese agricole dal 1 gennaio scatta l'obbligo della fatturazione elettronica. Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, chiediamo come stanno vivendo i nostri agricoltori questo cambio che qualcuno ha detto sia epocale. Sicuramente c'è grande preoccupazione, specie tra le piccole imprese a conduzione familiare. Erano in molti, per la verità, non solo nel settore agricolo, ma anche tra commercianti e artigiani, a sperare fino all'ultimo in una proroga che però il Ministero dell'Economia ha confermato che non ci sarà. Così chi non si era attrezzato per tempo ha dovuto farlo a ridosso delle festività natalizie, contattando le organizzazioni professionali per capire se e come poter provvedere in autonomia oppure se esternalizzare il servizio. In pratica, per le imprese che cosa cambia? Dal punto di vista fiscale sostanzialmente niente, obblighi e esenzioni restano inalterati e anche il contenuto della fattura, nel senso delle informazioni obbligatorie da riportare, è praticamente invariato. Quello che cambia radicalmente è il supporto della fattura, che sarà digitale non più cartaceo, e la modalità di recapito. Infatti tra chi emette la fattura e colui che la riceve si interporrà d'ora in poi la pubblica amministrazione attraverso il cosiddetto sistema di interscambio, anche noto come SDI. Dal 1 gennaio una fattura che non transita attraverso lo SDI si considera come non emessa e la carta non avrà più alcun valore fiscale. Se dovessimo stimare questi costi? Allora, per fare un esempio, in base ai prezzi correnti, un'impresa vitivinicola con circa 2.000 fatture all'anno, tra l'acquisto di programmi specifici e servizi di conservazione dei dati per i 10 anni previsti dalla legge, avrà un costo che oscilla fra i 15 e i 25 centesimi di euro a fattura. Questo significa che alle microaziende con meno di 100 fatture all'anno conviene sicuramente delegare il servizio di fatturazione a un soggetto terzo. E quindi dal prossimo martedì tutto a regime? Questo è molto improbabile. Fortunatamente nei primi 6 mesi di applicazione la normativa ha previsto un avvio soft con le fatture elettroniche che dovranno essere predisposte entro la scadenza della liquidazione periodica dell'IVA, chi mensile, chi trimestrale, e nei mesi successivi la fattura potrà essere emessa e trasmessa allo SDI entro 10 giorni dall'operazione. Fortunatamente anche le sanzioni saranno ridotte al minimo nel primo periodo di applicazione. Terza serie di puntate dedicate ai bovini con Sandro Menegon, che fa il punto sull'allevamento di questi animali nel Friuli Venezia Giulia. E seguendo lo schema utilizzato per le altre specie trattate dalla rubrica, quali le considerazioni dell'allevamento bovino nel Friuli austriaco? In Carinzia, nei distretti di Vilacco ed Ermagor, si tenevano numerose mostre di animali Meltal, tra cui alcune per soli tori, e nella Val Canale la popolazione bovina aveva caratteristiche assimilabili a quelle di questa razza. Nella principesca contea di Gorizia e Gradisca, come in provincia di Udine, nella seconda metà dell'Ottocento si importarono riproduttori appartenenti a diverse razze bovine, mentre nel 1903 la giunta provinciale, dividendo il territorio in 3 regioni di allevamento, alpina, mezzana e piana, stabiliva le razze che avrebbero sostituito le razze popolazioni locali. Nella regione alpina la razza plezzana e la tolminotta vennero sostituite gradualmente dalla melta. Nella regione media diversi incroci furono rimpiazzati da capi brunalpini e nella regione piana un percorso speculare come quello in provincia di Udine, cioè friulana per Friburgo prima e friulana per Simmental poi. Nel 1912 a Tapogliano venne costruita una stalla denominata di stagionatura per i giovani riproduttori importati e quelli reperiti sul territorio delle 3 razze citate. E a Trieste? Dai dati della statistica agraria di Trieste nel periodo 1857-1907, i bovini allevati erano rappresentati da pochi esemplari puri e molti meticci delle razze Meltal, Pusterthaler, Montavon, Oberinthal, qualche capo brunalpino e altre varie di razze austriache. Indubbiamente la richiesta di latte da parte della popolazione della città di Trieste favoriva l'allevamento di razze e popolazioni di discreta capacità latifera e la rimonta esterna. Potremmo dunque dire che la via del progresso nel Friuli italiano ed austriaco agli inizi del Novecento aveva raggiunto dei risultati tali che permettevano l'emancipazione dai paesi d'Oltralpe e l'inizio di una mirata selezione. Sì, ma purtroppo la Grande Guerra, oltre gli orrori causati da tutte le guerre, non determinò una situazione di stallo, ma un drastico passaggio di ritroso che comportò, limitandoci solo al comparto bovino, a un contesto ben peggiore di quello esistente circa mezzo secolo prima. Un bosco nuovo per l'anno che verrà è il titolo che oggi Franca Merluzzi ha dato al suo contributo per la rubrica dei giardini. Il 10 agosto 2017 forti rovesci di pioggia e raffiche di vento fino a 120 km orari hanno causato ingenti danni agli alberi di parchi e giardini della regione. Nel parco Pirzio Biroli a Brazzacco di Moruzzo, per esempio, sono andate perdute 150 piante secolari. a macchia di leopardo, anche in altre zone il patrimonio arboreo è stato danneggiato. Del fortunale del 2017 si è pensato come a un evento anomalo che si sarebbe ripetuto chissà quando, e invece, a poco più di un anno di distanza, nell'ottobre 2018, il vento ha soffiato fino a 200 km orari, provocando disastri, atterrando non piante singole, ma interi boschi. Questa volta è stata la carne ad essere colpita. Gli esperti ci spiegano che dobbiamo fare i conti con i cambiamenti climatici dovuti al riscaldamento globale e con violenti temporali che interesseranno anche la nostra regione. Vorremmo non crederci, ma forse, come qualcuno sta facendo, è più utile trasformare un disastro in un'occasione per riflettere in generale su quanto sta avvenendo e in concreto su cosa fare per i boschi abbattuti. Questi sono gli obiettivi della GTF, fondazione con sede a Collalto di Tarcento, formata da esperti e appassionati con un interesse in comune: i grandi alberi che scalano, misurano e studiano a livello mondiale senza mai dimenticare quelli delle nostre montagne. Quest'anno, per solidarietà, la Fondazione, assieme ai comuni di Sappada, Ampezzo e Forni a Voltri, e grazie al lavoro di soci e volontari, molti i giovani, ha raccolto punte di abeti schiantati che sono diventati alberi di Natale. L'iniziativa ha avuto successo. 2000 tra punte e confezioni natalizie realizzate con ramaglie recuperate e che sono servite per la prima raccolta di fondi. Ora inizia la sfida più grande: proseguire nel progetto e creare nuove boschi nelle zone alluvionate ad alta capacità di resistenza. Serviranno diverse competenze da cercare presso università e istituti agrari e forestali. C'è molto da capire per migliorare le conoscenze. Quello che attrae di questo progetto è il grande amore per gli alberi e la forte convinzione che ci aiuteranno a salvare il pianeta. Iniziamo il 2019 condividendo questo auspicio visionario, ma che sicuramente fa parte anche della nostra sensibilità. Buon anno a tutti. Nelle trincee della Prima Guerra Mondiale c'era anche la grappa, bevanda di conforto o forse anche altro per i soldati, come ci racconta oggi Gabriele Caiazza. Rustico alcolico per palati forti, durante la Grande Guerra la grappa fu volutamente messa in campo per aiutare in qualche modo le truppe a contrastare il freddo e tener su il morale. Finì così per diventare quella sorta di surrogato del coraggio, ripartito 10 litri ogni 50 soldati insieme al rancio. E venendo in tal modo scoperta anche dai tanti italiani che prima d'allora ne ignoravano l'esistenza, uscì dalle tragiche contingenze belliche, consacrata come bevanda nazionale. Eppure si continuò a considerarla riservata a un target preciso. Per il momento il suo principale mercato rimasero le fasce meno abbienti della popolazione, e solo sporadicamente si cercò di orientare qualche acquavite di vinaccia verso consumatori più benestanti, non di rado ricorrendo a nomi esotici, allora francesizzanti. Intanto nel 1928 mosse i primi passi a Gemona la distilleria Driussi, dotatasi di alambicchi in rame a vapore, che con il passare degli anni manterrà dimensioni ridotte e carattere artigianale, puntando specialmente su grappe aromatizzate, dannata o invecchiate, e su confezionamenti originali, che oggi rientrerebbero a pieno titolo fra le tecniche del packaging. L'anno seguente, 1929, pur continuando l'attività del nonno e del padre, Antonio Nonino decise di spostare la sede aziendale da Ronchi a Percoto. Gli elenchi delle ditte allora attive in Friuli riportano il nome della distilleria Cantarutti, sorta proprio a Percoto alcuni decenni prima e avente sede in via Viola. Essa tuttavia dovette terminare le proprie attività entro l'inizio anni 30, sicché da allora Antonio ebbe in loco campo libero e nel 1933, ispirata al tipico Fogolard Furlan, nacque la prima etichetta Nonino, ottemperando all'obbligo sancito dalle nuove leggi di imbottigliare la grappa dotando i contenitori di regolare etichetta e sigillo di Stato. Il primo trentennio del secolo vide nascere e rafforzarsi diverse altre aziende del settore. La distilleria agricola Canciani e Cremese si trasferì alla nuova grande sede udinese eretta in stile Art Nouveau da Silvio Piccini nel 1905 e contraddistinta dall'elegante e inconfondibile doppio ingresso, portale carraio ed entrata della portineria, affacciato sul viale Ledra, dove fra l'altro poté ampliare la gamma della propria produzione produzione, aggiungendo ai distillati ormai tipici, per la prima volta in Italia, le bagne destinate al mercato dolciario nazionale. Aziende similari destinate ad altre produzioni furono per esempio la distilleria d'alcol Buongusto e Denaturato, attiva a Cervignano dal 37 al 50 per la trasformazione della barbabietola da zucchero, e la fabbrica di essenze, aromi, bagni, alcolati eccetera, fondata da Ferruccio Zande Giacomo nel 1924 ad Aiello del Friuli. Ed ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento stabile alle contrattazioni cerealicole alla Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,70 e 16,90 euro al quintale IVA esclusa, il frumento buono mercantile tra 20,40 e 20,70, l'orzo tra 20,50 e 21 euro, la soia tra 33,20 e 33,70. Scambi positivi con discreti affari e prezzi stabili al mercato ortofrutticolo di Udine, dove l'insalata gentile viene pagata nella media tra 1,40 e 1,60 euro al chilo IVA esclusa, la cicoria tra 0,70 e 1 euro, la scalaura riccia tra 2,50 e 2,60, i pomodori italiani in grappolo tra 2 e 2,50, i finocchi tra 1,10 e 1,20, il radicchio rosso tondo tra 0,80 e 1 euro, quello di Treviso extra tra 4 e 5 euro, i cavoli tra 1,20 e 1,30, le spinaci tra 1,50 e 1,70, i kiwi tra 1,50 e 2 euro, le clementine tra 0,70 e 1,40 e le arance tarocco tra 0,80 e 1,50 in base alle pezzature. Nel settore della pesca, anche se c'è freddo e nebbia, l'attività è favorevole e i prezzi sono in leggero aumento. Al mercato della cooperativa pescatori Milano Lagunare, aperto anche sabato e domenica, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati tra 18 e 35 euro al chilo al netto dell'IVA, i rombi da 20 a 36, le sogliole da 7 a 24, i calamari e calamaretti da 17 a 23, le canocce o pannocchie da 12 a 16, le anguille da 18 a 22, le seppie da 8 a 15 e le capesante da 14 a 18. Infine, mercati in ripresa nel comparto degli avicunicoli, con i polli a terra pagati tra 1,02 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,41 e 1,43, le faraone tra 2,50 e 2,54, le anatre tra 2,55 e 2,59, le oche tra 4,60 e 4,80, i conigli oltre 2 kg e mezzo tra 2,48 e 2,54. E con il previsore dell'ARPA Osmer, Arturo Pucillo, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. L'anno andrà a concludersi con temperature in media, essenzialmente grazie al ristagno di aria nei bassi strati atmosferici. In quota aspirano correnti da nord, che nel corso della settimana tenderanno a ruotare da nord-est. Domani e martedì il cielo si manterrà poco nuvoloso e le temperature minime saranno sotto lo zero in montagna e in pianura, vicino allo zero sulla costa. Massime risaliranno di poco verso i 10 gradi. Martedì lo zero termico risalirà temporaneamente verso i 2500 metri, con marcata inversione termica nelle valli. Nella notte di San Silvestro ci possiamo aspettare temperature vicine agli 0 gradi in pianura, qualche grado di sopra sulla costa, già negative nei fondovalle, mentre il tempo rimarrà stabile. Venti deboli variabili in pianura, Borino sulla costa. Mercoledì e nei giorni successivi dovrebbe arrivare aria fredda dall'Europa nord-orientale, che ci porterà un assaggio d'inverno, almeno per quanto concerne le temperature, che nei valori minimi scenderanno sotto lo zero su gran parte della regione, mentre nei valori massimi rimarranno appena al di sopra. Il fulcro del freddo in quota dovrebbe verificarsi comunque prima dell'Epifania. Quelle che mancheranno saranno invece le precipitazioni. Per ulteriori e più aggiornate informazioni, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dell'Osmer ARPA sul web, sui social network e naturalmente sui programmi radiofonici e televisivi della RAI regionale. Alla prossima! Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana: El Nadal al ven cul feral, ovvero il Natale viene con la lanterna, nel senso che porta luce per illuminare le notti lunghe, ma come detto, le giornate al Prindalang si sono già allungate un pochino. Un pit di Chian. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Nada Cioc e tutta la redazione vi ringraziano, danno appuntamento a domenica prossima augurando auguri di buon anno. Avete ascoltato? vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.